fare tutta la... Restoradio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Settando fuori, grande Mauro. Continua la festa qui al convento di Donato, è la notte di Capodanno e la stiamo passando anche con questo quartetto di ragazzi, due donne e due uomini, quindi l'equilibrio è pressoché perfetto. Allora, benvenuti, vai, presentatevi pure, raccontateci un po' cosa vi porta qui. Io purtroppo sono Monica da Como. Purtroppo, perché è stata bullizzata nei minuti pre-intervista. Vorrei precisare, purtroppo abbiamo scoperto questa sera che Monica di Como non è così famosa a Como, e quindi vorremmo sponsorizzare Monica certo, di Como. Volete celebrarla, per renderla partecipe, esatto, celebrarla assolutamente. Monica non è da Como, ma è di Bradadesco, quindi romano, e di quel buco di culo di Como, che comunque si può dire che è parte di Como. È parte di Como, okay. Ci puoi, Monica, per favore, ci puoi dire cos'è Bradadesco? Una frazione Bradadesco di Romano, rispetto di a Como. Ok, Romano. Grande Romano di Lombardia. Bene, che comunque non ci appartiene, perché noi siamo di Como. No, tra l'altro, quindi... vorrei, adesso non vorrei. La ragazza, tanto accaldatissima in tutto, sì, questo, ha avuto un momento di estasi, esatto, il contegno, perché si sta esprimendo in tutto il suo, sì, tutta la sua libertà, tutta e la notorietà, la notorietà, la notorietà della radio, che esatto, fa che la fa liberare delle vesti, insomma, se fa questo effetto siamo contenti. No, dicevo, volevo dare un consiglio a Monica, che è Bradadesco o Bordalesco, come si chiama, Bradadesco, scoperto anche noi, no, però nel senso è molto difficile sia da pronunciare che da dire, mentre Como è più, è più smart, quindi devi pensarci a ed cambiare. È da questo che è diventata Monica di Como invece, esatto, che Monica di Bradalesco. La Monica di Como. Cioè, ora che hai detto Monica di Bradalesco, Monica è già 2021, cioè nel senso è già troppo, è già avanti, quindi io dovrei penserei se fossi in te di cambiare, esatto, di cambiare località. Avessero la monaca da Como, la monaca del convento. Del convento. Sì. Suona bene, suona bene. Bene, dopo questa monografia su Monica abbiamo anche altri tre personaggi, insomma, abbiamo Mauro, importanti, e vogliamo... Si sta aspettando fuori, grande Mauro. Bene, il nostro autista di questa serata. Ok, poi Sara da Como. Vedi, comunque, vedi Sara da Como, vedi com'è più com'è fluido. È fluido, no? è sciolto, è semplice, leggero. Se vuoi presentarci il tuo curriculum, sta cercando lavoro, forse è per quello che si è tolta il maglione, perché voleva già cominciare a cerca subito il soldo facile. Esatto, voleva subito far vedere le sue qualità e insomma voleva mostrare il meglio di sé. Donna facile. Poi abbiamo anche due uomini. Alla grande Gabriele, proprio lui, alla grandissima, più che alla grande Gabriele, anche lui da Como, informissimo, incredibile. Acquisito però da Como, amico di Monica da Como, volevo precisarlo. Sì, non togliamo notorietà a Monica di Como. Esatto. E infine, acquistare i piedi. Esatto. E infine l'agente di Monica. E l'agente di Monica sono Stefano, in realtà da Como acquisito. Da Como acquisito. Quindi praticamente l'unica pecora nera del gruppo rimane Monica, che ma ancora. In realtà guarda, non c'è nessuno di Como tranne sei tu, forse l'unica di Como. Ah, sei l'unica realmente di Como. Di Como, sì. Ok. Però insomma il fascino del paese è così forte che Vicenza, difficile resistere, difficile resistere, certo. Da Vicenza Como. Esatto, esatto. Allora a questo punto, scusate, approfitto della presenza della nostra covina covese. A questo punto dici cosa c'è di bello in questo Como, che tutti sono affascinati. Cioè dici un po' cosa c'è. Ragazze di Como. Insomma, ci sarà un motivo per cui bisogna venire e tutti sono così. In primis le persone. Ok. Le ragazze. Le persone, ok? Le tette. Sono la cosa più importante. Secondo. Le tette. Il bar. I bar? Io sto cercando di, fingendo di non ascoltare quello che. Quello che sento. E il culo di. Non ascoltiamo. Il bar, i bar, quindi poi basta. Bar, la piazza. La piazza. La chiesa. Che non esistono. Posso permettermi, non sta facendo una grande pubblicità. No, più che altro sono elementi che. No, volevo sottolineare che sono elementi che non si trovano in nessun'altra città italiana. Esatto. I bar, le chiese, le piazze. Cioè sono solo a Como. Tutto le tetri. Sono elementi dai ragazzi, ora direi. Eh sì, vai, eh sì. Che non sono di Como. Ma è la prima. Le tette di Como. La seconda, le tette di Como. e per finire le tette di Covo. Ecco, perfetto. Poi qui direi. Abbiamo altri. Direi che c'è stato. Altri elementi di Covo. Sì, no, no, dicevo, direi che è palese la differenza di vedute e di importanza tra donne e uomini rispetto a quello che colpisce di questa fantastica località. Guarda, ti ringrazio per la domanda, le vorrei usare come punto di riflessione. La prossima volta, Stefano, rifletti. No, rifletti su quello che hai detto, per il prossimo anno magari porta. Certo, per un 2020 esatto. Prospero porta e veramente positivo per tutti noi. Esatto. Per tutti voi, va bene, allora. Ve lo auguriamo. Possiamo presentare anche altre ragazze. Certo, certo, saluto anche loro. Abbiamo Roberta. Beh, presentale tu, presentale tu. Allora abbiamo Roberta da un'altra Covese Vera, Roberta. No, è brava. No, in realtà no, l'altra Covese Vera è Veronica. Ok. Veronica, l'altra. Poi abbiamo Roberta anche lei da Bradalesco. Ok, quindi acquisito. Esatto, abbiamo un esemplare. Un Graziano selvaggio. Abbiamo un Graziano che sta mandando. Selvaggio, ok. E questa che ci saluta fuori dal Richard ci sta guardando e un Richard veramente importante. Va bene, questo quindi è il gruppetto di Covo e limitrofi e limitrofi. Va bene, va bene. Allora ragazzi, grazie mille per essere passati e aver, come dire, lanciato la vostra testimonianza geografica prima di tutto e poi anche per gli auguri che avete fatto di un prosperoso 2020 e quindi ci vediamo tutti a Covo a questo punto sarà il punto nevralgico del 2020, sarà proprio la città di tendenza, la location di tendenza 2020. Sentivo dire che vogliono spostare anche le Olimpiadi che ci saranno in Giappone, vogliono spostare a Covo dopo questa intervista. Sì, sì, sì, sì. Quindi le cortine di ferro saremo felici. Esatto, dopo Milano, esatto, non c'è più Milano Cortina, ma Milano Covo. Milano Covo e quindi siamo felici di aver fatto anche promozione turistica, grazie a voi di averci aiutati in questo e grazie a Monica di Covo. No, speravo che no, esatto, infatti speravo si presentasse da sola come Monica di Covo, le ho dato l'assist, invece ancora Monica non la Bradalesco. Niente, ancora non l'abbiamo convinta, dobbiamo lavorarci un po', ma siamo convinti che e nei prossimi 12 mesi se mi permetti che ci sta aspettando, ci sta supportando e sopportando. Bene, allora lo salutiamo anche noi ovviamente e vi auguriamo di nuovo buon anno e buon 2020 ragazzi, a presto, ciao! Ciao, auguri a tutti!